TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Controlli e sgombero delle persone migranti nel Porto Vecchio di Trieste verranno trasferite e inserite nei sistemi di accoglienza di altre regioni. Al termine l'edificio 4 verrà sigillato per impedire nuovi accessi. Anziana salvata dai vigili del fuoco nel suo appartamento a Pordenone, invaso dal fumo. La donna di 82 anni non si sarebbe resa conto del pericolo determinato da un principio d'incendio. L'omicidio di Alessandro Venier, avvenuto la scorsa estate a Gemona e di cui sono accusate la madre e la compagna Meilin, la cui difesa chiede ora un'integrazione urgente degli accertamenti dopo che questi hanno svelato che i risultati dell'autopsia e dell'esame farmacologico non sono condivisibili. Il QR code a carnevale divide Muggia tra sì, no e indecisi. Pronta una petizione online per chiedere l'abolizione di un provvedimento preso dall'amministrazione comunale per garantire la sicurezza delle serate nel periodo. Per i contrari si tratta invece di un'azione che altera lo spirito della manifestazione e crea barriere. Gli studenti dell'istituto scolastico Grigoletti di Pordenone hanno lanciato una serie di iniziative per esprimere solidarietà al popolo iraniano di recente vittima di gravi repressioni da parte del regime. Dopo la risoluzione consensuale del contratto tra Tessera e la Triestina, poco fa la società ha presentato il suo sostituto, Marino, che tornerà sulla panchina Labardata già domani sera al Rocco, nell'anticipo di Serie C contro il Lumezzane. Le 12, 31 minuti e 40 secondi, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Andrei Marusic, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 22 gennaio. Da questa mattina è dunque in corso un'operazione di controllo delle persone migranti che hanno trovato sistemazione all'interno del Porto Vecchio di Trieste, in particolare nella zona interessata ai lavori nei pressi del magazzino numero 4. Impegnato personale di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, oltre al supporto di contingenti di rinforzo sotto il coordinamento tecnico operativo della Questura. L'obiettivo è quello di verificare la posizione amministrativa di chi trova rifugio negli edifici fatiscenti dell'area, inserirli nel sistema dell'accoglienza e quindi trasferirli in altri centri del territorio nazionale. Sono poco più di 100 i richiedenti asilo trasferiti dal Porto Vecchio di Trieste a opera delle forze dell'ordine, destinazione dei centri d'accoglienza in Friuli Venezia Giulia e altre regioni del nord e centro Italia, con alcune persone che saranno sistemate anche in strutture triestine. L'operazione ha coinvolto una quarantina di operatori di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale ed è scattata poco dopo le 7 del mattino. 50 giorni dopo lo sgombero del magazzino 2, questa volta è toccato a quello contrassegnato dal numero 4, in cui molte persone si erano rifugiate nelle ultime settimane e che ora verrà chiuso al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie. Una richiesta partita dal comune che, si legge in una nota della prefettura, ha in programma l'apertura dei cantieri per la riqualificazione della zona. Lo sgombero si è svolto, come già a dicembre, senza criticità. A presentarsi per l'identificazione anche diverse famiglie con minori provenienti da Bangladesh, Pakistan e Nepal. E poi molte persone che negli ultimi mesi hanno presentato richiesta d'asilo alla questura di Gorizia, viste le difficoltà denunciate a più riprese dalle associazioni che si occupano dell'accoglienza, a formalizzare la propria domanda a Trieste. Nelle operazioni di sgombero sono state coinvolte anche la Caritas diocesana, che ha fornito pasti ai migranti in attesa di essere trasferiti, e l'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che non era stato invece avvertito delle operazioni del mese scorso. In una nota, la rappresentante UNHCR per l'Italia, Chiara Cardoletti, ha ribadito, anche alla luce dei recenti avvenimenti che hanno visto la morte di alcuni richiedenti asilo che vivevano all'Addiaccio, l'importanza di rafforzare le risposte locali di accoglienza per le persone in transito a Trieste e la promozione di una distribuzione equa delle responsabilità a livello nazionale per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali. Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora gli ultimi sviluppi della vicenda riguardante l'omicidio di Alessandro Venier, avvenuto la scorsa estate a Gemona, e di cui sono accusate la madre e la compagna Meilin, la cui difesa chiede ora una integrazione urgente degli accertamenti dopo che questi hanno svelato che i risultati dell'autopsia e dell'esame farmacologico non sono condivisibili. Sono due i punti che non quadrano rispetto alla relazione medico-legale consegnata alla procura di Udine dal medico incaricato rispetto all'autopsia sul corpo di Alessandro Venier, il 35enne di Gemona, trovato senza vita e fatto a pezzi nella sua abitazione accusate di omicidio, vilipendio, occultamento di cadavere, la mamma Lorena Venier e la fidanzata di lui, Maylen Castro Monsalvo. Siamo con gli avvocati proprio di questa giovane che ora è detenuta a Venezia, Federica Toselle e Francesco De Carlo. Loro non hanno dubbi, non serve, dicono, tirare in ballo il soffocamento, poiché il farmaco, lo Zompida, il sonnifero che era stato somministrato dalla mamma della vittima Lorena Venier, era 10 volte superiori alle dosi letali. Federica Toselle, è così? Sì, è esattamente così. I nostri consulenti evidenziano come questo sia assolutamente sufficiente e non serva a tirare in ballo la concausa del soffocamento per portare alla morte una persona. E poi c'è la questione dell'insulina. Sì, hanno stabilito che, analizzando l'umor vitreo che hanno prelevato, che era una tipo di insulina esogena, quindi non quella che il nostro corpo produce, ma proprio quella iniettata. Il problema è che è stata trovata, ma non è stata misurata. Ora vi rivolgerete a Pavia. Noi abbiamo chiesto al centro antiveleni di Pavia di fornirci il nominativo di chi potrebbe aiutarci e anche a dirci se è possibile questo tipo di ricerca, perché noi riteniamo che l'insulina ha determinate quantità, e dal racconto della signora Venier la quantità è decisamente elevata, quella somministrata potrebbe aver addirittura accelerato gli effetti dello Zolpidem. Tutto questo per dire che la verità che ci ha raccontato Maylen è assolutamente supportata dalle indagini scientifiche che noi leggiamo oggi. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca a Pordenone, un'anziana ha rischiato di morire intossicata dal fumo nel suo appartamento di via Colvera, non lontano dall'ospedale. L'allarme è stato dato dal numero unico di emergenza. I vigili del fuoco sono entrati nella palazzina e, su indicazione di altri residenti in abitazione al primo piano, hanno trovato una donna di 82 anni che non si era accorta che il fumo stava invadendo l'appartamento. L'hanno quindi portata in salvo prima che perdesse i sensi, e affidandola poi al personale sanitario intervenuto con l'ambulanza. L'82enne è stata portata in codice giallo all'ospedale di Pordenone per un'intossicazione da fumo. Il principio di incendio è stato subito spento e l'appartamento messo in sicurezza. Era una notizia da poco arrivata in redazione. Papa Leone XIV ha nominato segretario del Dicastero per il clero Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, attuale arcivescovo di Gorizia. Lo riferisce il bollettino della sala stampa della Santa Sede. Rimarrà qualche mese anche alla guida di Caritas Italiana fino alla nomina del successore. La nomina al Dicastero è esclusiva, non sono previsti incarichi paralleli. Flessibilità, orari part-time, centro ricreativo per i figli dei dipendenti sono alcune delle misure per la conciliazione di vita lavorativa e familiare messe in campo dalla Roncadin, l'azienda di Meduna specializzata nella produzione di pizze surgelate, e con il nuovo stabilimento negli Stati Uniti riesce ad assorbire anche l'impatto dei dazi. Ne abbiamo parlato questa mattina nella rubrica Buongiorno Regione. 500.000 pizze surgelate ogni giorno, 100 milioni in un anno. È la produzione della Roncadin di Meduno, una realtà importante nel settore anche per l'offerta di lavoro nel territorio. Solo nello stabilimento pordenonese i dipendenti sono 850 e l'80% è composto da donne. Per aiutare i dipendenti a conciliare la vita lavorativa e quella familiare sono diverse le misure messe in campo. Il direttore delle risorse umane, Alessandro Tomba. Tutto parte dalla gestione dell'organizzazione del lavoro. La maggior parte del personale lavora turni giornalieri da 6 ore per complessive 30 ore settimanali. Quindi questo permette loro una corretta gestione familiare avendo una notevole quantità di tempo libero. Silvia Centa lavora nella produzione. Con i turni si riesce a fare tutto. L'azienda ci aiuta se ci sono delle possibilità di uscita prima per delle emergenze, delle richieste di un cambio turno, quindi è tutto possibile. Oltre al part-time c'è un centro ricreativo estivo per i figli dei dipendenti, congedi parentali, la possibilità per i neogenitori di non fare il turno serale. Daniela Gallo, lavoratrice della produzione. Quando sono rientrata dalla maternità, l'azienda mi ha dato questa opportunità di rimanere a casa non facendo il turno serale, facendo solo i 2 turni, la mattina e il pomeriggio, in modo che la sera riuscivo a essere a casa con la famiglia, col bambino. Lato impiegati, ormai consolidato l'orario flessibile e soprattutto lo smart working. Francesca Nicodemo, impiegata amministrativa. Uno o due giorni a settimana, organizzandoci, diciamo, tra colleghe, per cui abbiamo sempre l'ufficio coperto, però possiamo usufruire di questo strumento per vari motivi, anche magari avendo dei figli malati. A livello produttivo, tra i mercati più importanti figura quello americano, ora assegnato dai dazi. Per assorbirne i costi diventa centrale il nuovo stabilimento negli Stati Uniti. Luciano Martello, direttore Operations. Noi abbiamo progressivamente alimentato lo stabilimento che abbiamo a Chicago con produzioni che nascono negli Stati Uniti per gli Stati Uniti o per i paesi limitrofi, e c'è chiaramente un piano di ampliamento della capacità produttiva che porterà ad assorbire la maggior parte della produzione degli altri stabilimenti verso gli Stati Uniti direttamente su Chicago. Meduno, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Grazie alle risorse del PNRR, la pubblica amministrazione regionale ha accelerato in modo significativo procedure e tempi di risposta dopo la pandemia, e quanto emerge dall'FPA Annual Report presentato a Roma, che colloca il Friuli Venezia Giulia ai primi posti in Italia per efficienza amministrativa e competenze digitali. Lo ha sottolineato l'assessore regionale Sebastiano Callari intervenendo alla presentazione del rapporto curato dal forum Pubblica Amministrazione. Secondo gli studi, la spinta del PNRR ha introdotto scadenze certe, contribuendo a superare alcune rigidità burocratiche. Per Callari, nella nostra regione, la modernizzazione della pubblica amministrazione passa dalla digitalizzazione, dall'interoperabilità dei sistemi e dalla valorizzazione dei dati per servizi più semplici e accessibili a cittadini e imprese. E siamo alle condizioni del meteo. Il cielo è da nuvoloso a variabile su pianura e costa, da sereno a poco nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 7 gradi e 5 decimi, a Udine 5 gradi e 5 decimi, a Gorizia e Pordenone 3 gradi. A Foni di Sopra 2 gradi, a Tolmezzo e Piancavallo 1 grado e mezzo, a Tarvisio meno 3, 5 gradi e 5 decimi, a Sappada meno 6. Sul monte Zoncolan 1 grado e 5 decimi sotto lo zero, 2 gradi e 5 decimi sotto lo zero sul monte Lussari, sulla costa a Grado 3 gradi e mezzo, a Lignano 3 gradi. Le previsioni per oggi: sulla zona montana cielo sereno, su pianura e costa presenti nubi medio-basse, via via più compatte e consistenti procedendo dalla pedemontana verso la costa, dove il cielo risulta nuvoloso. Sono più di 70 in Friuli Venezia Giulia le comunità energetiche rinnovabili, le cosiddette CER, e la regione spinge ora verso una CER di area vasta. Il percorso in corso dovrebbe portare alla definizione dei soci fondatori entro fine marzo e alla costituzione del soggetto giuridico entro aprile. Lo ha spiegato Piero Mauro Zanin, direttore generale di FVG Energia, intervenendo all'incontro pubblico organizzato dal comune di Butrio per presentare la CER locale. L'obiettivo, ha sottolineato, è avvicinare produzione e consumo di energia rinnovabile, migliorando la stabilità della rete. Alla fase di coprogettazione partecipano 22 soggetti, dalle associazioni di categoria alle istituzioni, con le adesioni definitive attese entro marzo. La CER regionale, ha ribadito Zanin, non sostituirà quelle esistenti, ma le integrerà puntando su benefici ambientali e sociali, oltre al risparmio economico. Il professore Agostino Dovier, docente di informatica all'Università di Udine, è il nuovo redattore capo della rivista scientifica Theory and Practice of Logic Programming, tra le più autorevoli al mondo nell'ambito dell'intelligenza artificiale simbolica e del ragionamento automatico. L'elezione è avvenuta all'unanimità da parte del Consiglio dell'Associazione Internazionale di Programmazione Logica. La rivista, pubblicata da Cambridge University Press, è attiva dal 2001 e rappresenta un punto di riferimento per la comunità scientifica internazionale. Dovier insegna fondamenti dell'informatica e ragionamento automatico ed è delegato dell'Ateneo per la didattica e l'intelligenza artificiale. È inoltre autore di oltre 170 pubblicazioni scientifiche e 3 libri sul tema. Gli studenti dell'Istituto Scolastico Grigoletti di Pordenone hanno lanciato una serie di iniziative per esprimere solidarietà al popolo iraniano, rimasto, come sappiamo, di recente vittima di gravi repressioni da parte del regime. Banchi vuoti con tracce di sangue e lumini accesi durante la ricreazione al liceo Grigoletti di Pordenone, dove un gruppo di allievi ha organizzato un'iniziativa dedicata al popolo iraniano e in particolare ai coetanei che hanno perso la vita durante le proteste. Gli studenti si sono riuniti sotto il porticato della scuola per leggere, ascoltare e condividere alcune testimonianze di persone coinvolte nella resistenza al regime iraniano. Hanno inoltre acceso candele e lumini per protestare contro lo shutdown digitale imposto dalle autorità iraniane. Nell'atrio B è stata invece allestita per l'intera giornata un'aula con nomi e testimonianze di attivisti per sensibilizzare e informare studenti, docenti e personale ATA sul tema della tutela dei diritti. L'iniziativa è stata preceduta ieri da un incontro preliminare di informazione e dibattito coordinato dal docente di storia e filosofia Matteo Antoniel. Il liceo Grigoletti ha così scelto di esprimere la vicinanza al popolo iraniano perché hanno fatto sapere i promotori dell'iniziativa. Educare significa anche prendere posizione a favore dei diritti e delle libertà. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il QR code a carnevale divide Muggia tra sì, no e indecisi. Pronta una petizione online per chiedere l'abolizione di un provvedimento preso dall'amministrazione comunale per garantire la sicurezza delle serate nel periodo carnevalesco. Per i contrari, si tratta invece di un'azione che altera lo spirito della manifestazione e crea barriere. Il ticket di 10 euro per gli eventi serali del Carnevale di Muggia ha infiammato gli animi di un migliaio di persone. Stando a due petizioni identiche sulla piattaforma online change.org, il numero delle firme raccolte sarebbe pari ad un terzo dei non residenti che potranno accedere alla cittadina ogni giorno. Non è possibile verificare chi siano i firmatari, ma solo il loro numero. Nel testo redatto dalle promotrici si afferma che il sistema di QR code a pagamento altererebbe lo spirito tradizionale aperto della manifestazione, allontanando coloro che non hanno gli strumenti tecnologici o le risorse finanziarie per accedervi. Per garantire la sicurezza, la petizione chiede di implementare le forze dell'ordine. Per il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, si tratta di una richiesta pretestuosa, dato che l'incremento del numero di agenti delle forze dell'ordine sarà deciso dalla questura e che gli steward addetti alla sicurezza saranno una ventina in più. Soprattutto il sindaco ribadisce che il pagamento per gli accessi serali è un'iniziativa decisa proprio per garantire la sicurezza, a cominciare dall'effetto deterrenza che dovrebbe avere sui facinorosi che decidono di accedere a Muggia all'unico scopo di creare disordini e non per godersi divertimento. Polidori fa presente che la sfilata e tutte le manifestazioni diurne sono gratuite. Inoltre, per chi, pur essendo entrato di giorno, volesse fermarsi la sera per consumare cibo o bevande, gli esercenti del centro storico di Muggia hanno a disposizione ticket da distribuire gratuitamente ai clienti. Ricordo che il carnevale costa all'amministrazione e di conseguenza ai muggesani oltre 300.000 euro, ha detto Polidori, tra steward, strutture, pulizia. Il biglietto di accesso per i non residenti non coprirà le maggiori spese. Muggia, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport calcio. È stato il direttore sportivo Michele Franco ad aprire poco fa la conferenza stampa di presentazione di Giuseppe Marino al suo ritorno sulla panchina della Triestina. Alla base dell'accordo consensuale della rescissione del contratto con Attilio Tesser, precedente allenatore, ha spiegato Franco, sono stati gli ultimi risultati negativi che hanno spinto la proprietà a dare una scossa all'ambiente. Franco ha chiarito anche che il tecnico ha continuato ad allenare per alcuni giorni a causa di un problema tecnico di comunicazione. Ha parlato, senza giri di parole, di una situazione societaria definita drammatica al suo arrivo. Sul mercato ci sarà, dopo Cernigoy e Ionita, anche l'uscita di Gunduz, una scelta, è stato detto, obbligata per evitare poi di perdere a giugno a parametro zero. Marino ha subito chiarito le sue idee: non sono qui per partecipare al funerale della squadra, un incarico scomodo, ammesso, ma una rosa che conosce bene, nella quale crede, convinto che ci siano ancora punti importanti da portare a casa. Domani il primo banco di prova per lui e per la squadra nella sfida contro il Lumezzane, prevista al Rocco con inizio alle 20:30. Siamo al basket. Ieri sera, preziosa vittoria di Cividale contro Brindisi per 81-73 nell'infrasettimanale di A2. I ducali hanno sconfitto una delle favorite per la promozione, rimangono nelle prime posizioni di classifica. Prossimo impegno per i ducali domenica a Verona, ma sentiamo la breve dichiarazione del coach Stefano Pillastrini nel post partita. Ci sono tante cose che mi fanno piacere di questa partita. Intanto la risposta non solo emotiva alla più brutta partita che abbiamo fatto, quella di Rieti, è fatta con una solidità e con una autorità importante. E poi c'è tante prestazioni individuali, un momento straordinario. Adesso il calendario non c'è amico perché abbiamo una trasferta difficilissima, però andiamo con tutte le intenzioni di fare un'altra grandissima partita. Proseguono gli appuntamenti del Trieste Film Festival. Nel pomeriggio alle 14 al Politeama Rossetti di Trieste, l'anteprima italiana di Il turno di Elena, seguita alle 16 dai cortometraggi in concorso. In parallelo al Cinema Ambasciatori, il documentario L'elezione di Miss Babbo Natale. In serata alle 20, fuori concorso, Due procuratori di Sergei Loznitsa. Chiusura alle 22.15 con Brat Fratello, un film di Maciej Sobieszanski. Il rapporto fra la Russia e i paesi baltici, una coesistenza difficile, il titolo dell'incontro con il professor Stefano Pilotto, docente di storia delle relazioni internazionali e geopolitica, inserita nell'ambito della rassegna Pordenone Pensa. Appuntamento alle 20 presso la biblioteca comunale Sala del Donatore. E alle 20.30 presso la Sala del Centro Culturale San Rocco a Gorizia, due interventi sul tema lo stato attuale dell'ecumenismo a cura di Don Cristiano Bettega e del pastore Jens Hansen. La professoressa Viviana Mattiussi parlerà di Siro Cisilino, una vita per la musica sacra, genio musicale e anima friulana con la polifonia nel cuore e carattere tenacemente indomito. In Accademia Città di Udine alle 16. Gli spettacoli, il pianista francese Pierre-Laurent Aimard debutta al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, suonerà Bach, Schubert e Kurtag, compositore ungherese di cui si festeggiano i 100 anni. L'appuntamento è alle 20.30. Alle 18 conferenza di approfondimento dal titolo Prendi Nota, diario intimo, poetiche del frammento nella Mitteleuropa, cura di Luca Ciammarughi, pianista e scrittore. Gli ultimi prigionieri di guerra, l'arte razziata dai nazisti del giornalista Fabio Isman, sarà presentato alla libreria Minerva alle 17.30 in collaborazione con il Circolo della Cultura e delle Arti per la sezione Scienze Morali. La presentazione a cura di Roberto Curci, giornalista del quotidiano Il Piccolo. E Simone Morandi, conosciuto anche come Simon and the Stars, astrologo, avvocato di artisti, agente, produttore cinematografico, presenta il suo oroscopo per il 2026 con merito lusso alle 18 alla Lovat in viale 20 settembre a Trieste. La Hammerle Editori presenta Indomonauta e Tormenti per la collana antologica di Cosimo Cosenza a cura della poetessa Alda Guadalupi dell'autore e di Lucia Saxida alle 17.30 presso la saletta in via della Maiolica 15 a Trieste. E tornano anche le letture con le fantastorie per bambini e bambine da 0 a 3 anni, iniziativa promossa dal comune di Gradisca di Sonzo a casa Maccari via della Campagnola alle 17. Per la rassegna Romance d'autore sarà ospite Silvano Colugnati con il suo nuovo giallo I due gatti alle 20.30 presso il Centro Culturale Casa Candussi, Pasiani. Ancora alcuni spettacoli. Wow, lo spettacolo del protagonista della serie TV Il Mentalista, Francesco Tesei, andrà in scena per la stagione congiunta ERT Fondazione Luigi Bona al Teatro Maurensic di Felletto Umberto di Tavagnacco alle 20.30. Tappa l'auditorium polifunzionale di Talma Sons per Alieni in Laguna alle 20.45. Una ballata econarrativa sul nostro rapporto con la biodiversità. Ideatore e protagonista di Andrea Pennacchi, con lui sul palco Giorgio Gobbo, autore e interprete delle musiche. In conclusione, per la rassegna Orto Teatro e la giornata nazionale della lingua locale e dei dialetti, proiezione del docufilm Cammino di San Cristoforo, La voce dei Magredi di Roberta Cortella. Al Centro Culturale Aldo Moro di Cordenonsa alle 20.30 la serata è promossa dal gruppo cordenonese del Ciavedal. E si chiude così questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.